si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori. Eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare. Staremo insieme fino alle 10, la rassegna stampa. Poi qualche buona notizia, le nostre storie a lieto inizio, storie che iniziano bene, almeno che ci provano ad iniziare col piede giusto. Questa volta avremo anche una storia che per il momento è a lieto fine, quella del giovane toscano Jacopo Melio, che è riuscito a convincere, non si sa come, glielo chiederemo, le Ferrovie Italiane a ristrutturare almeno 200 stazioni italiane per rendere accessibile anche ai disabili come lui. Una buonissima notizia. Poi parleremo con una rappresentante del popolo delle partite IVA. Cercheremo di capire come e perché i freelance sono arrabbiatissimi con il governo Renzi. Insomma, una giovane generazione di nuovi professionisti, da pubblicitari, comunicatori, designer, informatici, che sono alle prese con una riforma che lo stesso Renzi ha ammesso essere del tutto sbagliata. Questo subito dopo il giornale radio delle 8. Adesso cominciamo con i giornali. I nostri contatti da subito, se volete interagire con noi: la pagina Facebook Si può fare trattino radio 24, l'account di Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Vai. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, eccoli qua i giornali di oggi, che hanno naturalmente ampio spazio sulla questione della liberazione di Greta e Vanessa, ma anche sui nuovi arresti antiterrorismo, fermati alcuni jihadisti al confine con l'Italia. Poi anche la politica, con le mosse di avvicinamento all'elezione, insomma ai primi voti per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Cominciamo con il Corriere della Sera, titolo principale sulla questione di Greta e Vanessa. Come detto, hanno detto vi rapiamo per soldi, è il virgolettato. Il racconto di Greta e Vanessa, blitz. Poi diciamo un'altra notizia: in Europa presi due jihadisti dal Belgio in fuga verso l'Italia, le ragazze liberate in Siria, bendate, chiuse in una stanza. Il ministro Gentiloni risponde alla domanda: il riscatto, solo illazioni. E tra poco vedremo questo dibattito. La fotonotizia che il Corriere sceglie a centropagina è quella del Papa che con il cardinale filippino Luis Antonio Tagle fanno insieme il gesto, il pollice, l'indice, il mignolo in avanti, il gesto che nel linguaggio dei segni significa io ti amo. Però la polemica è sulla frase del Papa: l'altra guancia o il pugno del Papa? La Chiesa divisa. La frase del Papa che piace, scrive il Corriere, ai preti di strada, quella sul fatto che non puoi insultare la mia mamma altrimenti ti do un cazzotto, frase che invece piace un po' meno, scrive il Corriere, ai teologi. Altra notizia riportata in prima pagina del Corriere della Sera è questa, è frutto di un'intercettazione, riguarda un'inchiesta Saipem e coinvolge Scaroni. L'ex manager dell'ENI parlava al telefono nel 2013 con l'allora ministro Passera. Sì, erano tangenti, avrebbe ammesso Scaroni. Scrive Ferrarella sul Corriere: la frase è in una telefonata intercettata sull'utenza di Paolo Scaroni il 31 gennaio 2013. Il manager, allora al vertice di ENI, parla con il ministro dello sviluppo economico del governo Monti, Corrado Passera, e dice: io sono pure d'accordo che siano in qualche modo delle tangenti date alla politica algerina, non sappiamo bene a chi, ma a qualche algerino. I due stanno parlando di quei 197 milioni di euro di apparenti commissioni per contratti petroliferi in Algeria pagati da Saipem, appartenente al gruppo ENI, nel 2007-2010 ad una società di Hong Kong appartenente a un mediatore algerino con base a Dubai. Su Repubblica, titolo principale invece dedicato, come dicevamo, a questi nuovi arresti, terrorismo, l'Europa sotto attacco, jihadisti fermati al confine italiano. Blitz e retate in Belgio e Germania. Due ricercati della retata in Belgio contro i jihadisti europei sono stati arrestati dalla polizia e dai doganieri francesi a Chambéry, a est di Lione, mentre stavano cercando di riparare in Italia, in Francia, del tutto smantellata la rete di Koulibaly. Ancora a proposito di Greta e Vanessa, chiediamo scusa a tutti. Greta Ramelli è scoppiata a piangere. Scusa mamma, ci scusiamo entrambe con voi e con tutta l'Italia. Non tornerò mai più in Siria. Vanessa invece è riuscita a dire eravamo andate per aiutare i bambini. In un altro momento la stessa Vanessa ha poi detto torneremo a fare volontariato. A proposito di questa notizia, leggiamo un primo commento che è quello di Silvia Vallone, la scrittrice sul Corriere, che se la prende un po' con la furia cinica, scrive, e maschilista dietro le urla, se la sono cercata la polemica sul pagamento da parte dello Stato italiano del riscatto, polemica che è giusto dirlo altrove, in altri casi, quando è stato liberato per esempio Domenico Quirico, il giornalista, non c'è stata, o non c'è stata altre volte, quando in ballo magari c'erano dei militari, qualcuno dirà i militari sono obbligati, su Quirico non lo so qual è il giudizio, sulle due giovani volontarie sicuramente c'è una sorta di pregiudizio sul fatto che siano andate lì a, come dire, a cuor leggero. Leggiamo cosa dice Silvia Vallone. Io sono qui a casa mia di fronte a un computer, non ho affrontato un viaggio pericoloso per raggiungere uno dei cuori più dilaniati e bui della storia, non ho varcato il confine in Siria per dare conforto a chi fugge da razzie e stupri. Quello che accade in Siria però, scrive, ci riguarda, i profughi che tentano di sottrarsi alla guerra in cui è impossibile, non dico vivere ma anche appena sopravvivere, desiderano arrivare qui. Gli aspiranti terroristi che vogliono imparare il terrore e addestrarsi con i Kalashnikov partono da qui, per cui intendo Europa, Italia e Francia. Qui e laggiù, scrive la Silvia Vallone, sono collegati, intimamente connessi. Poi ho sentito dire di tutto sul conto di Greta e Vanessa, gridato da persone che, come me, stanno sedute a una scrivania, affacciate a una finestra con vista sul tempo di pace. E, per quanto questa pace sia difficile e piena di crepe, mi domando da dove abbiano origine tanti giudizi e tanta rabbia. Ah, se fosse stata mia figlia, e intanto io pago, se la sono andata a cercare. Il volontariato lo si può fare anche in Italia. Prosegue a Vallone, ho intercettato a volte un più o meno larvato maschilismo, altre un crudo cinismo, e mi sono ritrovata a pensare al paradosso. Ci si indigna tanto con chi ha il coraggio di un atto di solidarietà quasi più che con chi parte con le peggiori intenzioni. Ci si sofferma molto sulle leggerezze, sugli errori, e si sorvola sull'altruismo, sulla sofferenza di due giovani donne che dopo 5 mesi e mezzo di sequestro sono tornate in Italia. Questo un primo commento sulla materia. Adesso, se troviamo la parte in cui il ministro Gentiloni ha riferito in aula, vediamo se la troviamo su Repubblica, e le parole che sono state scelte dal ministro, che insomma da una parte ha negato che sia stato pagato un riscatto, dall'altra però ha detto la nostra priorità è salvare le vite degli italiani, e quindi in qualche modo ha ammesso che questa ipotesi ci possa essere. Sulla Stampa invece il commento è affidato, uno dei commenti è affidato ad un altro esponente di un'altra organizzazione internazionale, Amnesty International Italia, il cui direttore generale Ruffini dice le missioni fai da te rischiano di fare più danni che beneficenza. Al di là delle polemiche, l'aiuto portato deve essere utile ed efficace, dice appunto Gianni Ruffini, direttore generale di Amnesty International Italia. Lo era quello di assistenza sanitaria in Siria? Horrarity, l'associazione rappresentata da Vanessa e Greta? Punto di domanda. La domanda, osserva Ruffini, richiede un ragionamento che va al di là della felicità nazionale per il ritorno a casa delle due ragazze. Il risultato, al netto della generosità e dell'entusiasmo, è molto negativo. Questo è il punto di vista di Ruffini. Le missioni fai da te erano pratiche diffuse fino all'inizio degli anni 90, ma dopo il Ruanda abbiamo tutti aggiustato il tiro. Fare i garibaldini del soccorso oggi è impensabile. Quando, come nel caso dell'associazione di Greta e Vanessa, riesce a raccogliere 2, 3, 4 mila euro muovi un volume di aiuti diverso da quello di Oxfam, certamente, e dalle altre organizzazioni che lavorano a suon di milioni. In un teatro come quello siriano, dice ancora Ruffini di Amnesty International, un mattatoio dove resistono solo irriducibili come Medici Senza Frontiere, basta un battito d'ali di farfalla per scatenare un terremoto. E questo è quanto. Sulla questione della frase del Papa, dicevamo, il dibattito sul fatto, scrive il Corriere, la frase "se insulti mia mamma ti do un pugno", una frase che piace ai preti di strada ma non ai teologi. L'approfondimento è questo, affidato a Riccardo Bruno. Don Vinicio Albanesi scrive: è un prete che si sporca le mani di quelli che piacciono a Papa Francesco. La battuta sul pugno, dice, non mi scandalizza, anzi mi ha fatto proprio piacere, ha detto Don Vinicio. E anche lui fa un esempio, il presidente della comunità di Capodarco che aiuta i tossicodipendenti, tra le altre cose, dice: se un ragazzo tossico continua a rubare e a imbrogliarmi, non reagisco dicendogli ti perdono, così non lo aiuto, certo non lo odio, ma ho il dovere di difendere me stesso e anche lui. Il male va combattuto, altrimenti siamo dei fessi buonisti. E questo che parla è un prete, in linea con quello che ha detto Papa Francesco sull'aereo mentre andava nelle Filippine. Per un altro esponente di Chiesa, Piero Stefani, biblista e docente alla Facoltà Teologica di Milano, è stata un'espressione infelice, però non si può isolare dal contesto una frase sfuggita tra le maglie. C'è la questione, secondo questo teologo Stefani, dell'uso di un linguaggio popolare da parte di Papa Francesco che lo porta ad esempi come quello della mamma, ma il vero nucleo della questione è che ci sono dei valori non negoziabili, dei limiti alla libertà di espressione. Quando l'ironia e il sarcasmo sono estremi, allora diventano secolarizzanti. Il rischio è di sgretolare i punti di forza della religione, una dissoluzione che non si può accettare. Altro parere è quello di Dario Antiseri, filosofo cattolico dal pensiero a volte scomodo, scrive il Corriere. Parte dal presupposto che la libertà di stampa è fondamentale, ma nessuna libertà è illimitata, ed è questo il senso della battuta del Papa. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo insieme con Si può fare, la rassegna stampa. E stavamo, siamo entrati nel dibattito sulla frase del Papa: se insulti la mia mamma ti do un pugno. Una serie di commenti, l'ultimo quello del filosofo Dario Antiseri, che dice: il Papa ha voluto, riportato dal Corriere, il Papa ha voluto ricordare che anche la libertà d'espressione ha dei limiti. Un punto di vista simile a quello espresso al cardinale Casper su Repubblica, intervistato tra i consiglieri più influenti di Bergoglio. Commenta le parole del Papa sul terrorismo, violenza aberrante. Francesco però ha sottolineato il senso del limite. Il pugno del Papa, solo una battuta, ma è giusto il richiamo alla responsabilità. Scrive, dice Casper: dico che ha ragione il Papa, non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Questo è un dato di fatto, come acquisito è il fatto che uccidere in nome di Dio sia un'aberrazione, ma la libertà di espressione è sia diritto sia un dovere, ossia un diritto che comporta anche dei doveri. Fra questi doveri c'è il comprendere che esistono dei limiti e che esiste una responsabilità. Quindi l'interpretazione, diciamo, che prevale è quella di considerare questa frase del Papa una, come dire, una frase che mette in guardia sui limiti della libertà di espressione, che dall'altra parte ha come contraltare un senso di responsabilità e non insultare, non offendere per esempio le religioni. Tornando al caso di Vanessa e Greta, dicevamo delle parole del ministro Gentiloni, l'abbiamo trovate, eccole qua, su Corriere. è stato pagato il riscatto? Punto di domanda. E se sì, si tratta davvero di 12 milioni di euro come hanno scritto alcuni giornali? A Montecitorio, davanti a un'aula semivuota, Gentiloni dice e non dice. Da un lato sembra smentire, siamo contrari al pagamento di riscatti, dice. E poi ancora, ho letto indiscrezioni prive di reale fondamento, con un riferimento evidente all'irrealistica somma che sarebbe stata pagata, i famosi 12 milioni di euro, ma... Poi, da un'altra parte, Gentiloni semina dubbi con le sue altre dichiarazioni. Nei confronti degli italiani presi in ostaggio, ha detto il ministro, la priorità è indirizzata alla vita e all'integrità fisica. Un grande paese si impegna a proteggere e a salvare la vita dei propri cittadini sequestrati. In tema di rapimenti, l'Italia, ha detto ancora Gentiloni, si attiene a regole e comportamenti condivisi in ambito internazionale in linea con l'Unione Europea. In questo schemino il Corriere riporta quello che secondo il New York Times sono le cifre che sono state pagate negli ultimi anni ai sequestratori che fanno capo ad Al Qaeda, 126,5 milioni di dollari nel periodo 2010-2013, pagati in gran parte dalla Francia per rapimenti avvenuti nel Maghreb islamico, ma anche dalla Svizzera, dalla Spagna e dall'Austria. Altri pagamenti sono stati fatti dal Qatar e dall'Oman per rapimenti avvenuti nella penisola arabica, e ci sono 5 milioni di euro pagati anche dalla Spagna, cifre ufficiali. Quindi insomma il business dei rapimenti rende sicuramente bene ai terroristi. Chi se la prende con tutto questo è per esempio il presidente del Veneto Zaia. La Lega, lo sappiamo, Salvini ha detto è uno schifo, e Zaia dice si sono messe nei guai da sole, ora è giusto rivalersi su di loro. Come cittadini abbiamo prima di tutto il diritto di sapere la verità su questa storia. Cosa erano andate a fare veramente in Siria queste due ragazze? Azioni umanitarie o sono andate in autonomia? Intendo dire, specifica Zaia, che quando io devo mandare il soccorso alpino in elicottero per salvare chi pretende di scalare la Marmolada con le infradito, poi l'elicottero se lo paga lui. Gli fa notare il giornalista di Repubblica, dice, veramente risulta che Greta e Vanessa fossero partite per portare aiuti ai bambini, una cosa un po' diversa che andare con le infradito sulla Marmolada. Insisto, dice Zaia, in questa storia non sappiamo nulla, nemmeno la genesi di questo viaggio. Abbiamo mobilitato mezzo mondo per riportare in Italia queste due ragazze. Ora almeno ci dicano come sono andate le cose. Cioè, sembra quasi che Zaia metta in dubbio che siano andate per con una organizzazione, diciamo, di volontariato, quasi come se fossero fiancheggiatrici di qualche forma di terroristi o di guerriglieri. Perché insiste Zaia sul chiedere un chiarimento sulla genesi di questo viaggio. Al di là di tutto, continua ancora Zaia, se vogliamo veramente voltare pagine è necessario approvare una nuova legge, una norma che stabilisca che chi si reca in luoghi a rischio deve essere autorizzato, se non lo fa viola la legge e lo Stato andrà a recuperarlo, ma poi potrà rivalersi a vita su queste persone. Altro argomento è la corsa al Quirinale. Dicevamo, il titolo del Fatto Quotidiano, il meno amato dagli italiani, mentre in tutti i sondaggi svettano Rodotà e Prodi, scrive il Fatto, Renzi delinea l'identikit dell'impopolarissimo dottor Sottile, già braccio destro di Craxi, simbolo della casta, collezionista di poltrone e pensioni, fedelissimo di Napolitano e candidato ufficiale del pregiudicato Berlusconi. Il Quotidiano Nazionale ci ricorda il Giorno di Milano in prima pagina che Prodi non ci sta, non gioco più, la foto notizia di Romano Prodi, Prodi si ritira, Renzi farà un nome 24 ore prima del voto. Non so quanto tempo ho ancora, forse meno di un minuto, un minutino. Allora, due titoli, Libero, sempre sulla questione del rapimento e della liberazione di Vanessa e Greta, siamo il bancomat dei terroristi, il Giornale, una bugia nel nome di Allah, il governo copre gli islamici, riscatto per Greta e Vanessa, per il ministro sono illazioni, ma poi ammette la priorità è salvare le vite. Chiudiamo col Manifesto, brutto finale ligure. La questione delle primarie e dei voti annullati, i voti per le primarie del PD, per il candidato governatore. 13 seggi e 4.000 voti cancellati, scrive il manifesto. Le primarie che danno la vittoria alla candidata renziana Raffaella Paita finiscono nel caos. Alla direzione del PD, Renzi chiude il passaggio dei gazebo. Basta, vogliamo vincere, non facciamo i tafazzi. Ma Sergio Cofferati contesta il voto e oggi annuncia le sue prossime mosse. Ci fermiamo qua, adesso c'è il giornale radio, torniamo subito dopo, 800 24 00 24, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ciao Carlo, ben ritrovato. Ciao Ale. 800 24 00 24, ciao a tutti cari ascoltatori, vi aspettiamo come sempre in diretta per i vostri commenti, le vostre buone notizie. E qualunque cosa, io devo salutare un panettiere, devo salutare il fornaio sotto casa mia. Come tu ben sai, io ho appena traslocato quindi sto vivendo la mia zona. Nuove abitudini. Sì, come se fosse un paese e vado in giro a conoscere tutti questi posti. Entro in questa panetteria e mi dicono: lei è Gabardini? E io subito penso che ci sia o lo zampino di mia mamma o della Digos, non lo so. Invece no, mi ha detto: salutami molto Alessio, perché io sono un vostro assiduo ascoltatore. Bene. Vi assiduo. Vi ascolto tutti i giorni. È un grande ascoltatore di Milan mentre fa il pane, ma il sabato ascolta noi. Allora, e quindi lo salutiamo. Grazie, naturalmente salutiamo. Sì, certo. Parleremo di partite IVA. Non so se il fornaio, no, è una ditta, sarà una ditta individuale. Questo cioè, non te lo so dire. Se vuoi poi domani indago. Glielo chiedi. C'è un fermento tra i freelance, perché insomma il governo Renzi lo ha ammesso, l'hanno fatta grossa questa volta, e cercheremo di capire come e perché sono state sottovalutate e sfruttate fino all'osso dal punto di vista fiscale le partite IVA. Questo sarà il nostro primo grido d'allarme che lanciamo sono oggi. Una partita IVA ci terrei a sottolineare. Poi oggi c'è questo interessante, diciamo, convegno a Milano per la giornata della famiglia, indetto da Obiettivo Share, che è un'associazione che dice che gli omosessuali vanno curati, che si possono curare e che se ne occupano loro. Convegno volentieri. Convegno omofobo, esatto, è stato titolato. È da Alleanza Cattolica. Io non so se sia omofobo o meno. Il convegno si chiama Difendere la famiglia per difendere la comunità. Io ci sarò perché voglio andare a sentire che cosa, se mi possono curare, anche perché penso che sia aperto a tutti. Poi io sicuramente io potrò entrare perché sono un paziente, direi, giusto? È un convegno per curarmi. E se non posso entrare io, ci saranno Maroni, ci sarà la scrittrice Costanza Miriano, che è quella che ha scritto il libro Sposati e sii sottomessa, quindi vado anche a sentire un po' se hanno da dire delle cose anche a mia mamma, e sono molto curioso. E poi ci racconterai, perché questo convegno ha suscitato un po' di polemiche, la presenza del logo dell'Expo e di Maroni a questo convegno che alcuni definiscono omofobo, perché c'è questa associazione. Vedremo, magari poi non è così. Anche PD, diciamo, e se l'hanno definito omofobo, per dire, non solamente le associazioni arcigay e del mondo LGBT. Il logo dell'Expo va detto che in realtà loro, la regione ha detto, tutti gli convegni che fa la regione devono avere per obbligo il logo di Expo. Ciò non toglie che c'è stata fatta, diciamo, una richiesta di togliere in questo caso, visto che sembrava un po' troppo di parte, visto che dovrebbe essere la nostra finestra sul mondo fra poco, di tutta Milano e quindi di tutta Italia, propagandare idee, diciamo, un pochino superate, come l'omosessualità è una malattia che, come ben sappiamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che non è assolutamente così ed è una follia, diciamo che rischiamo di farci una bruttissima figura, questo sì. Senti, a me invece adesso, proprio in queste ore, ha colpito un'altra cosa, ed è un po' questa reazione, no, di fronte al rapimento, al finito rapimento, alla liberazione di Greta e Vanessa, le reazioni diverse che ci sono state. Ho cominciato vedendole sui social network, poi anche ieri sera parlandone con con amici. C'è chi se la prende con il possibile riscatto pagato e dice, beh, insomma, queste due potevano andare a fare volontariato negli ospedali in Italia senza andare a fare le due ingenue. E la teoria che se la sono andata a cercare. E questo, naturalmente, dall'altra parte moltissimi che sono felici perché sono tornate, magari un po' di ingenuità, di idealismo a 20 anni ci può anche stare, ben venga la generosità e l'altruismo. Questa cosa mi ha fatto pensare che, insomma, di fronte a cose estreme ci sono reazioni che possono essere le più diverse e opposte. Per esempio, sono due giovani italiani che hanno fatto un esperimento interessante a Göteborg in Svezia. Sono Nicola Bremer e Marco Gili, sono due studenti di comunicazione che stanno lì in Svezia, e dopo quello che è successo a Parigi, a Charlie Hebdo, sono andati in giro in un centro commerciale con un cartello sopra la testa con scritto "Baciami, sono un vignettista", e la gente si avvicinava e ha avuto le reazioni più straordinarie. Bisogna vederlo questo video che gira in rete. Bello, "Baciami, sono un vignettista". C'è chi si inginocchia, li abbraccia, li stringe, "Sono con te, siamo con voi", e ci sono invece delle signore indignatissime che fanno "Ma come? Come vi permettete di approfittarvi di questa cosa per questi bassi scopi come farsi baciare?" Quindi vedi come... Mi stai facendo venire un'idea. Io credo che al convegno di oggi da Maroni andrò con un cartello con su scritto "Baciami, sono di si può fare". 800 24 00 24. Poi, naturalmente, poi chiudiamo, c'è anche il gioco di oggi. Allora, vi chiediamo di completare la frase iniziata dal Papa: se insulti mia mamma, lui ha detto "io ti do un pugno". Sì, l'ho sentito. E invece voi, cari ascoltatori, cosa fate se insultano la vostra mamma? 800 24 00 24. Uno potrebbe dire "porgi l'altra guancia e prego insulti anche il papà". Certo. Non so, potrebbe essere una risposta. Allora, come sempre, in palio ci sono biglietti e catalogo della mostra di Chagall. 800 24 00 24. Adesso andiamo dalle partite IVA. Hai mai pensato che per essere felici non ci serve la ricchezza? La ricchezza. E che ci basta stare insieme un po' di vino nel bicchiere in una stanza, in una stanza. Però puoi mettere e buttarsi sul divano della nostra casa in centro di una coppa di champagne. Sarebbe un sogno ad occhi aperti, ma anche i sogni hanno un costo eppure alto, ma adesso basta, scendiamo tutti quanti in piazza e accendiamoci la testa. Era rimasta la finestra, un po' distratta, pensa, sei solo tu la mia speranza e la mia uscita di emergenza. Se questa corda non si spezza, ci costerà un extra. Sembra strano che noi non ci conosciamo. Diamo il buongiorno a Anna Soru, presidente di ACTA. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, l'associazione, una delle associazioni più rappresentative del mondo dei freelance, delle partite IVA, che siete, sono sul piede di guerra perché, insomma, le misure annunciate e messe in atto dal governo Renzi sui contributi previdenziali che aumentano per questi giovani designer, informatici, comunicatori, pubblicitari, contributi previdenziali che aumentano, tassazione che aumenta a fronte, però lo sappiamo, per le partite IVA di prestazioni, ferie, malattie, maternità, che sono servizi scarsissime, lo sa chiunque ci si è imbattuto o chi è una partita IVA. Anna Soru, io ho fatto un piccolo cappello, cosa c'è che non va, che vi riguarda, che riguarda i freelance, tra le decisioni assunte dal governo Renzi? Innanzitutto c'è proprio il fatto che non siamo stati considerati, cioè è stata fatta un'importante riforma del lavoro e poi una legge di stabilità e in entrambi i casi non c'è stata nessuna attenzione al mondo dei freelance, come se non esistessimo. Partiamo dal Jobs Act. Il Jobs Act doveva estendere le tutele a tutti, si parlava di tutele universali, per esempio per la disoccupazione, ma il concetto di universale è soltanto universo del lavoro dipendente. Per noi non è previsto nulla, non è previsto nulla come disoccupazione, non è previsto nulla anche su le malattie, la malattia seria, la malattia grave. Noi stiamo facendo da tempo una battaglia con una nostra socia, Daniela Fregosi, per chiedere il riconoscimento di una tutela nelle malattie lunghe e serie. Daniela ha un tumore, ecco, in questi casi, e non abbiamo ancora ottenuto nulla. Se andiamo a vedere la legge di stabilità, ancora peggio, perché non solo non abbiamo ottenuto nulla, ma abbiamo dei peggioramenti. Sul fronte non abbiamo ottenuto, c'è il discorso del bonus degli 80 euro. Noi sappiamo che questa è una delle principali bandiere di questo governo, e anche in questo caso però gli 80 euro sono esclusivamente per i dipendenti. È come se non venisse riconosciuta la cittadinanza a chi non è dipendente. Tutto questo poi si aggiunge alla legge di stabilità, nella quale arrivano anche le batoste, cioè arrivano i contributi che aumentano, esatto, a dei livelli molto alti, e anche le tasse che per il regime dei minimi, che doveva agevolare e ha agevolato per molti anni l'inizio di queste professioni, no? Per chi guadagna sotto i 30.000 euro una tassazione del 5%, che verrebbe triplicata, arrivando al 15, fino a un punto, mi diceva Anna, che praticamente non conviene più fare la partita IVA. Diciamo che non c'è più nessuna agevolazione. Il problema è che non è che uno scelga di fare la partita IVA perché conviene, no? E spesso, molto spesso, è uno dei modi di lavorare, per qualcuno è l'unico modo di lavorare, quindi dovrebbe essere preso in considerazione tutto questo. Al momento la tassazione complessiva per un freelance, se mettiamo insieme contributi e fisco, è superiore a quella di un dipendente. Parliamo di quanti milioni di persone circa? Abbiamo soltanto delle stime, stime sui freelance sono circa 1.300.000 in Italia, sulla base, diciamo, dei dati Istat verrebbe fuori questa cifra qua. Cioè tutte le partite IVA sono 1.300.000? No, partite IVA nel complesso, c'è dentro tutto il mondo del lavoro autonomo tradizionale, come gli artigiani e i commercianti, noi parliamo. E lì si va oltre i 3 milioni, credo. Sì, esatto, però noi parliamo di freelance, che sono quelli che svolgono un'attività di tipo professionale, diciamo, che è il nuovo lavoro autonomo, che è quello che ha avuto una fortissima espansione negli ultimi anni. Questo è un punto importante, perché mi sembra che, al di là poi delle cifre tecniche, ogni categoria ovviamente fa le sue rivendicazioni, però qua si coglie nel segno di una generazione anche di giovani, nuovi lavoratori, che per forza, anziché essere dipendenti o aprire delle ditte, hanno fatto ricorso alla partita IVA, dissanguandosi, perché pagando via via sempre più contributi a fronte, ripeto, di prestazioni che se una ragazza rimane incinta mentre è una partita IVA, ha una maternità ridicola, le ferie, la malattia, eccetera eccetera, sono prestazioni, diciamo, che sono o scarse o quasi inesistenti. Allora, a fronte di questo, pagare contributi sempre più alti appare inaccettabile. Per il 21 gennaio, mercoledì prossimo, avete organizzato un convegno, un incontro nel quale cosa volete allora fare? Chiediamo, i contributi aumentano in particolare per una gestione speciale, che è la gestione separata dell'INPS, e qui aumentano dal 27,72 al 30,72, ed è una cifra molto alta, perché se noi pensiamo invece alle altre categorie di lavoro autonomo, per esempio gli artigiani e i commercianti, versano intorno al 23%, quindi ci sono già circa 8 punti di differenza nella contribuzione previdenziale, e 8 punti che ci spingono a dire: vabbè, ma insomma non siamo proprio sempre costretti ad iscriversi alla gestione separata, vediamo quando non siamo costretti e cerchiamo di uscirne. E con questo seminario daremo un po' di informazioni per permettere a ciascuno di capire se è nella condizione di poter fuggire dalla gestione separata. Tra i suggerimenti separata potrebbe esserci anche quello di aprire ditta individuale, o addirittura, esatto, di mettere sede all'estero. Dove, in Svizzera? No, beh, questo sulla sede all'estero, in questo momento la Svizzera poi non mi sembra che ha sganciato il franco. No, noi cerchiamo le soluzioni in loco, sappiamo però che ci sono già stati tanti freelance che hanno deciso di andare all'estero perché la situazione è più favorevole. Volevo però precisare una cosa, non parliamo soltanto di giovani, in realtà qui dentro c'è di tutto, anche tantissime persone non giovani che hanno iniziato a lavorare tanto tempo fa, o anche tanti che sono rimasti senza un lavoro di recente, e ormai in questo mercato del lavoro asfittico spesso l'unica possibilità per continuare a non essere disoccupato è quella di inventare, diciamo, un lavoro. Giovani ad honorem, no? Che poi l'età passa, anche se magari l'approccio al lavoro è un approccio nuovo. Qual è la vostra proposta a questo punto al governo? Renzi ha detto: è vero, abbiamo sbagliato sulle partite IVA, ci metteremo le mani, però c'è anche un po' la paura che il tappo sia peggio del buco. Allora, la nostra proposta è innanzitutto di agire subito, immediatamente, col blocco dell'aumento della contribuzione pensionistica alla gestione separata, e anche sul fronte del regime dei minimi, quantomeno di ampliare la soglia, perché il problema non è solo la triplicazione dell'imposta dal 5 al 15%, ma il fatto che rientreranno nel nuovo regime dei minimi soltanto gli autonomi sino a 15.000 euro di fatturato, che corrisponde a circa 600 euro di reddito al mese. Cioè è chiaro che è una misura che interesserà pochissime persone, anche perché sotto i 12.000 non è neppure conveniente questo regime. Quindi noi chiediamo che almeno si ampli ai 30.000, questo nell'immediato, però più in prospettiva vorremmo che ci fosse un'azione per rivedere completamente quello che è tutto il sistema fisco e previdenza relativo al lavoro autonomo, perché ripeto è un lavoro che è in forte crescita, è un'opportunità per il paese, perché il paese non potrà uscire dai livelli di disoccupazione attuali soltanto puntando al lavoro dipendente, però occorre creare delle condizioni migliori sia per la sopravvivenza sia per la crescita, perché fra l'altro anche il regime dei minimi, quello vecchio, è un regime che ha parecchie pecche, fra le quali il fatto che non incentivava la crescita ma incentivava a restare dentro i 30.000 euro. Ecco, pensiamo che anche su questo ci sia molto da migliorare e speriamo che effettivamente ci vogliano consultare, però è importante che intervengano subito, immediatamente, perché noi ormai abbiamo già l'aumento dei contributi, abbiamo già il cambio del regime fiscale. Quindi sì, si parla di una sospensione per quest'anno delle nuove misure, staremo a vedere il 21 il vostro raduno, il vostro incontro, il workshop, ma anche la convocazione in commissione lavoro appunto delle partite IVA. In bocca al lupo Anna Soru, presidente di ACTA. Ce l'avete un hashtag per la vostra battaglia su Twitter? Perché a volte porta fortuna la ne storia. Abbiamo parecchi, abbiamo Dicano 33 e siamo rotti, e anche Renzi the Wind. Conviene sceglierne solo uno però di hashtag. Sono stati in tempi diversi, diciamo che siamo rotti è uno di quelli più popolari. Pensavo fosse viva l'IVA. grazie mille. Buona giornata, buona buon giornata. Sabato. 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, se avete voi stessi una partita IVA, se vostro figlio, vostro nipote, vostro cugino, vostro cognato, vostra sorella, chiunque, e via così andare avanti sul ramo genealogico, possiamo fare un elenco anche piuttosto lungo di parentele, se avete storie di partite IVA da raccontarci, noi siamo qua per ascoltarle. 800 24 00 24. Io l'ho detto, una generazione magari non diciamo di età tutti giovanissimi, come diceva Anna, ci sono freelance in queste condizioni, anzi superata una certa età si perdono alcuni favori fiscali, però una generazione anche dal punto di vista dell'approccio al mondo del lavoro, non più lavoro dipendente ma neanche lavoro autonomo, ditta propria, quella via di mezzo, che rimane fregata, si può dire così? Certo che si può dire, tra l'altro non è nemmeno poi così legata alla generazione, proprio che è un po' un nuovo modo, nel esatto. Senso che sono tutti coloro che fino all'altro ieri non avevano bisogno della partita IVA, ma adesso che i datori di lavoro bisogna che tu abbia la partita IVA, di modo che debbano pagare meno contributi. E averli ignorati completamente o addirittura cercare di spremerli ancora di più. Bisogna dire che non è stato solo il governo Renzi, ma già il governo Prodi, il governo Monti, sì, però avevano fatto balzellini, una inversione, la svolta buona. Sì, soprattutto perché sono di questa generazione, diciamo, essendo un governo più giovane, è una generazione i cui coetanei hanno tutti la partita IVA e svolgono un certo tipo di lavori. Devo ricordare il numero degli SMS, perché c'è chi ci tiene moltissimo e tutte le settimane ci dice: insomma, si può fare anche di dare il numero degli SMS e noi lo diamo. Gli SMS si mandano al 349 238 6666. E vi aspettiamo anche per proseguire la frase: se insultassero vostra madre, voi che cosa fareste? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Well, treno di Jacopo Melio oggi passa da Radio 24, da Si può fare. Buongiorno Jacopo. No. Buongiorno. L'autore di questa campagna, lanciata con un hashtag ma anche con un blog, Vorrei prendere il treno, che è riuscito a ottenere un discreto successo, perché niente proprio di meno che il vice ministro Nencini ha annunciato l'adeguamento di oltre 200 stazioni italiane, dando modo ai disabili di poter avere accesso ai treni. Una richiesta lanciata a grande voce da Jacopo. Jacopo, come intanto avrai festeggiato? Cosa hai fatto? Hai stappato una bottiglia quando hai sentito queste dichiarazioni di Nencini? Sì, è stata sicuramente una enorme soddisfazione, perché è comunque un segnale forte di risposta a questa campagna. Se ricordo, la risposta è venuta il 19 novembre, quindi insomma è stata ufficializzata solo adesso. Rete Ferroviaria Italiana sembra si sia preso questo impegno. Proprio, diciamo, in risposta quasi diretta, ovviamente di richieste ne saranno arrivate negli anni, di esposti da parte di tante persone, però questa tua campagna Vorrei prendere il treno, insomma, ha fatto breccia. Tu eri già in Toscana, avevi avuto un colloquio anche con l'assessore, il presidente della regione, se non ricordo male. Sì. Infatti con lo stesso presidente Enrico Rossi abbiamo deciso comunque di continuare questa campagna e di chiedere miglioramenti anche per quanto riguarda la Toscana. Cettarelli, l'assessore dei trasporti regionali, ha promesso per i prossimi anni 2 milioni per il 2015 e 2 milioni per il 2016 per migliorare, insomma, la nostra situazione, e anche qui sembrerebbe che entro il 2017 arriveremo ad un 75% di stazioni completamente accessibili. Quindi, ci spieghi, insomma, Jacopo, cosa succede oggi a una persona come te in sedia a rotelle che entra in stazione per prendere un treno? La problematica iniziale è sicuramente arrivare al binario, perché non ci sono spesso ascensori, non ci sono percorsi in rilievo per i non vedenti, quindi l'accessibilità prima di tutto deve riguardare la stazione stessa, e poi i treni o sono vecchi e quindi non dotati di strumentazioni che possano permettere alle persone con problemi motori a salire, oppure laddove le macchine sono nuove, il regolamento di Trenitalia prevede comunque di prenotare il viaggio almeno 48 ore in anticipo, e questo secondo me è un ulteriore limite alla libertà di movimento, perché mentre gli altri... È scomodissimo, devo dire, spezzo una lancia, perché trovo pazzesco che uno debba saperlo per forza 48 ore prima, non sempre uno lo sa 48 ore prima che deve partire. Esatto, io mi metto le panni di una persona che ha un'urgenza, certo. Oppure uno stesso lavoratore pendolare, dover chiamare tutti i giorni per prenotare il viaggio di 2 giorni dopo diventa uno stress su uno stress. E poi, insomma, se un padre di famiglia una domenica mattina vuole portare la propria bambina al mare, come può fare chiunque, non può. E quindi, insomma, l'esempio mi sembra bellissimo. Jacopo, se poi resta ancora con noi, abbiamo una breve pausa, poi insomma, ti vorrei chiedere dove hai trovato anche la forza, la costanza, proprio la forza d'animo per andare avanti in questa campagna, perché ripeto, moltissimi ci avranno provato a fare degli esposti, poi a volte uno vede qualche cosa che non funziona, pensa di far qualcosa o magari poi rinuncia per pigrizia, per paura, e invece tu sei andato avanti caparbiamente. Adesso ci racconti da dove ti viene questa forza. Traffico. Strade in diretta. Buongiorno, è praticamente invariata la situazione sulla 4 Torino-Milano, l'autostrada resta chiusa tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano in seguito ad un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti di cui uno si è ribaltato. C'è un incidente anche a Gallarate sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, mentre sull'autosole attenzione è segnalato un veicolo fermo tra Lodi e la barriera di Milano Sud in direzione Milano. Sul resto della rete il traffico scorre ma è condizionato dalla pioggia, si incontra al nord lungo il tratto appenninico dell'autosole e in Toscana. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Jacopo Melio, autore della campagna Vorrei prendere il treno. Jacopo, tu sei di Cerreto Guidi? Sì, sì. Nella vita cosa fai normalmente? Studio scienze politiche. Qual è il tuo sogno? Te l'ho chiesto anche quando ci siamo fatti gli auguri di Natale e ti ho augurato l'in bocca al lupo per questa campagna, però adesso siamo in quest'altro spazio e te lo voglio richiedere. Il tuo sogno per il futuro, cosa, la tua ambizione, cosa vorresti fare? Mi piacerebbe lavorare comunque nella comunicazione o comunque fare qualcosa per gli altri, dare voce a chi purtroppo non l'ha avuta e la meriterebbe, quindi insomma, o nel campo della comunicazione, nel giornalismo o comunque con un impegno sociale, perché non politico. Io pensavo volessi guidare il treno. A chi può raggiungere la cabina, diciamo. Perché per il momento non è così. Scusami, ma volevo anche ricordare che hai anche una nomination, hai avuto una nomination come uomo Twitter dell'anno ai Twitter Award del 2014. Lo ricordo perché essendo io un vincitore, sì, di un Twitter Award, diciamo, sì, siamo colleghi. Siete e colleghi. Quindi volevo, diciamo, idealmente abbracciarlo. Ma come siete ganzi voi del Twitter Award? grazie mille. Senti Jacopo, io te l'ho chiesto, te lo richiedo, da dove ti viene fuori questa forza? Perché immagino che insomma di fronte a battaglie come questa è facile scoraggiarsi e dire vabbè, ma tanto non cambierà mai niente, lasciamo perdere. Invece tu caparbiamente sei andato avanti. Sì, ora è una campagna che è nata per caso, io non me lo sarei mai immaginato se da un tweet, da un articolo sul mio blog potesse nascere tutto questo, e quindi credo che la forza mi venga da questo, che non è niente di preparato e di voluto, e quindi a maggior ragione ne riconosco l'importanza. Credo che un'occasione del genere vada sfruttata il più possibile per vedere se veramente si possa ottenere qualcosa, e poi i messaggi che arrivano tutti i giorni di persone normalissime che vogliono mostrare che il nostro non è un paese civile, ma che c'è tanta attenzione, tanto rispetto verso la tematica, e quindi credo sia doveroso mostrarla questa bellezza, questo supporto, con la speranza che possa diventare una civile abitudine molto presto. In bocca al lupo ancora, grazie Jacopo Melio. Grazie mille, veramente. Complimenti, oggi festeggiamo il treno di Jacopo Melio. In bocca al lupo anche per il tuo sogno di diventare giornalista o di insomma avere un ruolo e fare qualche cosa anche per gli altri. Grazie. Tutto il meglio, presto, direi. Jacopo. Scrivo questo hashtag, tutto il meglio, scritto meglio come il tuo cognome. Grazie a te. Ciao, ciao. 800 24 00 24. Cari amici ascoltatori, allora volevo leggere un sms, sì, di chi ci dice: dopo 2 anni di partita IVA e disperazione ho aperto una ditta in Svizzera, sono rinato. Andrea da Como, gli chiederei quasi di chiamarci, di raccontarci, sì, questa sua storia, visto che abbiamo parlato di partite IVA, perché oggi siamo partiti dal, esatto, grido di dolore delle partite IVA e vogliamo le vostre storie su questo. Naturalmente, se volete commentare ma anche aggiungere qualche cosa al racconto di Jacopo Melio e la sua battaglia Vorrei prendere il treno, telefonate assolutamente. Poi c'è anche un altro sms che dice: Gabardini, se è così liberale perché non accetta che altri la pensano diversamente da lei? Vorrei dire che io accetto totalmente che altri la pensano diversamente da me, tanto che io al convegno di oggi ci andrò pure, quindi ci mancherebbe altro. Allora abbiamo Ruggero che ci chiama dalla provincia di Padova. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, allora volevo giocare e sì, volevo dire che se qualcuno da offende mia madre direi ti do una papagna, se invece offendono mio padre ti do un papagno, è un modo di dire dalle nostre parti. E direi che è perfetto, papagno, visto che stiamo parafrasando il Papa, quindi dire ti do un papagno è quasi un pugno del Papa il papagno, direi, da oggi in poi. Direi che no, normalmente dovrebbe essere così. Ma il papagno e la papagna, in che dialetto? Sono una specie di ceffone in Veneto, ti do un papagno, ti do una scoppola se vuoi, una specie di ceffone. Comunque insomma Ruggero conferma un po' la teoria del Papa e... Ma secondo me coniando, anzi, tra l'altro questa parola non coniandola perché è una parola che già esiste, ma mi sembra perfetto. Se ti sente Francesco ti telefona secondo me. Esatto, anche secondo me. Per chiedere spiegazioni. Il papagno, okay, anzi lui avrebbe dovuto quasi dire, se offendono mia mamma io gli do un papagno. E dopo, come la Papa Mobile, c'è cioè il papagno che è la sberla del Papa. Esattamente, un ceffone, una specie di richiamo un po' sostanzioso. Un po' forte. Grazie Ruggero, buon ciao sabato, tutti, ciao. È il primo ascoltatore che oggi concorre così ad aggiudicarsi biglietti e prestigioso catalogo della mostra di Chagall. Vi chiediamo di completare la frase prendendo spunto da quello che ha detto il Papa: se offendessero vostra madre, voi che cosa fareste? Puntini puntini. Doriana, dalla provincia di Viterbo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque io telefono per l'esperienza dei miei figli, soprattutto di mia figlia. Sono emigrati all'estero per trovare lavoro. Mia figlia insegna italiano, tra l'altro, a Marsiglia, in Francia, e da 6 anni. La cosa che mi ha colpita e sconcertante che lei ha detto: mamma, io non è una lavoratrice dipendente se non con piccoli contratti ogni tanto a tempo determinato. Per tutto il lavoro a tempo che non sia a tempo indeterminato o determinato, non esiste la partita IVA. Qualunque persona si accomoda agli sportelli, riempie un modello, ha un conto corrente, ad esempio come la Bank Postal, che è il più semplice, e praticamente da quel momento qualunque mansione lavorativa retribuita viene automaticamente convertita in contributi e tasse che preleva il governo francese. Cioè questo non avviene in Francia, la partita IVA. Sì. Non esiste la figura del commercialista, è tutto molto semplice, e quindi anche in cui i casi in cui devi acquistare qualcosa di importante, fare delle operazioni importanti, sì, allora in questo caso con una fila velocissima si ha tutto il passato contabile in Francia. Questo tanto se si sta in Francia per un anno, per 3 mesi o per sempre. Allora la mia domanda è questa: per quale ragione noi copiamo sempre il peggio di chi ci sta così vicino? Tutto qua. No, beh, adesso sì, bisognerebbe copiare naturalmente meglio, ha ragione Doriana. Ma una curiosità, sua figlia è partita diciamo come ripiego o un po' anche come scelta? No, mia figlia vita è partita proprio all'epoca con il suo compagno, sì, mettendosi proprio a tavolino scientemente per poter lavorare, perché avevano capito che qui non c'era futuro, sì, e quindi hanno cercato un posto, come potesse essere in questo caso della Francia, Marsiglia, che climaticamente e socialmente potesse fare al caso loro. Anche abbastanza vicino, certo. Sì, e adesso sua figlia è felice? Devo dire proprio di sì, lo è anche male. Il suo ex compagno, l'ha raggiunta anche mio figlio, mia figlia ha 30 anni, mio figlio ne ha 33 e come vede quindi la questione, e ho anche un nipote all'estero che sta invece in Inghilterra. Ma tutti all'estero diciamo, tutti in fuga dalla partita IVA direi? Non è una questione di fuga, è una questione proprio di rispetto che non esiste per le persone giovani che hanno studiato o che comunque vogliono avere una vita dignitosa. Questo purtroppo è molto amaro, ma è una constatazione. Ovviamente l'unica cosa che rimpiangono moltissimo dell'Italia, non glielo dico io, è la non vicinanza con i cari amici di sempre. Va bene, Doriana, dobbiamo fermarci qua. Grazie. 800 24 00 24. Dopo il giornale radio ci troviamo, ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hurts so bad, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say. E questa è Si può fare, anzi è il nostro Si può fare in musica. I Lived One Republic, la canzone scelta dal nostro ascoltatore Gianluca Cogni. Vi ricordiamo che noi stiamo cercando dei Si può fare in musica, ovvero il vostro modo attraverso una canzone di interpretare un possibile Si può fare, e potete segnalarceli sui nostri account sui social network, su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account Twitter at Si può fare 24, oppure Radio 24 News, però direi no, oppure i nostri account personali, quindi il mio che è chiocciola Carlo Gabardini e il mio che è chiocciola Ale Maurizi. Fatelo subito, subito fatevi, lasciatevi ispirare anche da questa canzone o dai vostri personali gusti musicali, e lasciateci le vostre segnalazioni in musica, perché noi poi le utilizziamo e le mandiamo in onda. 800 24 00 24. Ci sono dei begli sms che arrivano, certo. Anche perché forse dobbiamo spiegare meglio il gioco che stiamo cercando di fare. Noi chiediamo, il Papa ha detto, se qualcuno insulta mia mamma io gli do un pugno. Voi avete un altro modo magari di reagire, cioè come reagireste, che possono essere anche cose buffe o poetiche, è anche un modo per rispondere al Papa se volete. Per esempio c'è chi ci scrive, se qualcuno offende la mia mamma cerco di fargliela conoscere così si rende conto di che persona straordinaria sia. Oppure qualcuno che ci scrive, se qualcuno offende la mia mamma io la faccio cucinare per lui e così capirà che ha sbagliato. Questo mi sembra anche un buon modo. Ieri, credo che anch'io col polpettone di mia mamma me la caverei bene. Ieri un ascoltatore su Twitter, quando ha lanciato il gioco, ha detto, io chiamo la polizia se qualcuno offende mia mamma. Anche questa non è male. Oppure, io chiamo la mamma se qualcuno offende la mia mamma, volevo dire, ecco. Ah, bellissimo. Oppure potete porgere l'altra guancia e dire, prego, io l'ho detto prima, offenda anche il papà. Certo, oppure porgere l'altra guancia della mamma. Esatto. 800 24 00 24. Andiamo con Chiara che ci chiama da Milano. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Buongiorno. Sì, comunque l'avete già detto voi in precedenza, gli do un pugno, ha detto il Papa. No, questo l'ha detto il Papa. Questo ha detto il Papa. Ma noi cercavamo delle altre exit, diciamo, degli altri modi di reagire, cioè, a insulti. Se offendo mia mamma, allora puntini puntini puntini, ogni ascoltatore, diciamo, non è un quiz. Completi questa il frase. Quiz è la domenica. Nel modo che preferisce. Beh, anch'io darei le polpettine che preparava avvelenate, la mia mamma. Le polpettine avvelenate. Esatto. Mamma, va bene. Anch'io mi chiedo, le polpettine avvelenate o polpettine breccio. Buone? No, sono polpettine buone. Ah, va bene, va bene. Però non si sa, così detta così potrebbe anche essere un po' cattivella. Grazie Chiara, grazie. Grazie. Allora, la iscriviamo al gioco con le polpettine. Ha colto il tuo suggerimento, ha capito meglio il gioco, ce l'avamo spiegati male prima a noi. 800 24 00 24, ci sono altri messaggi, altre cose da leggere, guardiamo un po' velocemente. A me mi si è chiuso anche tutto e quindi non c'è nulla. Sì, vediamo. Se qualcuno insulta mia madre sicuramente non conosce mia madre, per esempio. Cravatta colombiana per chi offende la mamma, ovviamente scherzo, dice Lorenzo Rossi. Cos'è la cravatta colombiana? Deve essere qualcosa deve di essere qualcosa veramente terribile, terribile, che non voglio neanche sapere. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campione e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai di quest'onda, mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, quando resisterai? Siamo i giovani e senti quando il vento poi non tira. Noi siamo giovani, 50 nuovi giovani archeologi in arrivo a Pompei. La grande onda di Pompei, la nuova onda, sembra questa. Sentite qua che cifre, che numeri. Allora, l'action plan previsto per la ristrutturazione di tutti i cantieri di Pompei, rispettato e anzi anticipato nei tempi. Siamo oltre il 90% dei cantieri già avviati. In arrivo 50 giovani nuovi archeologi, l'abbiamo detto, altre assunzioni a inizio anno per fare cancelli, recinzioni, diverse domus di Pompei riaperte, in arrivo anche il nuovo sito web per attirare turisti e il sovrintendente di Pompei che lancia anche la scuola di archeologia per fare un centro di ricerca a livello internazionale. Viene voglia di studiare archeologia, diciamo. Viene voglia di andare a Pompei. Buongiorno a Massimo Sanna, sovrintendente di Pompei. Buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Non ci illuda troppo perché noi ci crediamo che si possa davvero... Devo smettere di fare dichiarazione, hai ragione, sì. No, non solo, ma anche fatti, perché per esempio l'altra volta ci siamo sentiti e ha detto non solo i cantieri stanno andando avanti, ma siamo in anticipo sui tempi, poi ci parlerà anche della scuola. Intanto ci dica questa cosa. Questo è vero, nel senso che rispetto a quello che era stato l'action plan che era stato firmato a luglio, la spesa che abbiamo raggiunto, che si chiedeva di raggiungere a dicembre, l'abbiamo già raggiunta ad ottobre, ma la cosa importante soprattutto abbiamo bandito 96 dei 105 milioni, cioè quindi sono lavori che partiranno fra il mese di febbraio e di marzo e che hanno come tempistica massimo 10 mesi e quindi potranno essere realizzati entro il 2020. Ecco, ricordiamo la notizia è questa, sì. Diciamo. Ricordiamo per gli ascoltatori più distratti una cosa: questi 105 milioni, cui 96 già messi a bando e, come dice lei, cantierati, sono i soldi dell'Europa che dovevano aiutare Pompei contro il rischio idrogeologico. Il cofinanziamento europeo, in cui appunto il 78 milioni erano stati assegnati dalla Comunità Europea e il 30% invece era nazionale. Per una volta non ci facciamo fregare anche i fondi europei, perché sappiamo che uno dei problemi dell'Italia è che poi non ci sono i soldi e non si spendono. Invece questa volta... No, ma soprattutto a Pompei servivano e si stanno facendo cose importanti per salvare il sito. Cioè, stiamo puntando soprattutto sulla messa in sicurezza di tutta l'area archeologica, che ricordo sono 44 ettari, cioè il sito archeologico più esteso del mondo. E quindi può capire che un sito archeologico fatto di rovine, per un'estensione di 44 ettari... piccoli crolli possono succedere, ma quello che stiamo facendo adesso è puntare sulle grandi, diciamo su una manutenzione straordinaria, perché poi deve cominciare necessariamente la manutenzione ordinaria anno per anno. Senta, il traffico dei turisti come sta andando? Cioè questa nuova onda di Pompei si sente o ci vorrà tempo sicuramente perché si comunichi e si faccia capire che Pompei riapre le domus, Pompei ristruttura eccetera eccetera, però come sta andando? No, si sente perché quest'anno il 2014 abbiamo avuto quasi il 10% in più di turisti, quindi siamo passati quasi a 2 milioni e 7, che è il secondo sito più visitato d'Italia, uno dei siti più visitati del mondo, il primo ricordo è il Colosseo e l'area archeologica di Roma. E quanto avete incassato? Ce l'hai i conti alla portata di mano? Dunque, abbiamo oltre i 20 milioni di euro. E quindi anche... Ovviamente con questi 20 milioni di euro sì. Sono destinati non solo a Pompei, perché ricordo la sovrintendenza non è solo di Pompei, ma è Pompei, Ercolano, Stabia, certo. E Oplontis. E dice, quest'anno, proprio perché ci sono i soldi della Comunità Europea di Pompei, si sono privilegiati sui finanziamenti ordinari gli altri siti, cioè Ercolano, dove c'è un cofinanziamento con la Fondazione Packard, lei sa, c'è un bel rapporto pubblico-privato lì, ma non mette solo soldi il privato, mettiamo anche noi. poi quest'anno una buona parte del nostro bilancio è andato su Ercolano proprio per cofinanziare progetti che si stanno facendo in collaborazione con il partner privato. E poi ovviamente Oplontis e Stabia, che hanno bisogno, sono anche di restauri urgenti e quindi avevano bisogno di un finanziamento. Ecco, e poi ci sono questi nuovi archeologi, una cinquantina, che lei ha detto, cioè no, che Franceschini le ha mandato, è così? Guardi, questo è il progetto del Ministero, che era, se non sbaglio era chiamato 1000 giovani per la cultura. Bah, sono arrivati 50. 50, e 50 no, arrivano 50 alla volta. No, ecco, la cosa positiva è che non sono 1000, perché se con 1000 con quel finanziamento significa pagarli 2 lire, invece la scelta oculata è stata quella di farne 50, ma pagarli bene. Così, certo, così lei la vede in positivo, giustamente. Giusto. Sono partite IVA? Sono partite IVA questi archeologi? Essendo tirocinanti, quindi sono come se fosse una borsa di studio. Ah, va bene, subordinati, quindi una borsa, quindi non sono partite IVA. No, siccome stamattina abbiamo parlato anche del dramma delle partite IVA, quindi questi questi 50 che arrivano a Pompei non sono tutti quelli che aveva annunciato Franceschini dovevano andare in generale per il patrimonio culturale italiano, e quindi ci dovrebbero essere altri siti dove arrivano 50 a Pompei, però so che sono allora nella selezione che abbiamo fatto noi c'erano anche giovani per le regge borboniche, quindi per le intendenze storiche artistiche, in particolare la regge di Caserta, e poi so ci sono un altro gruppo per l'Aquila, quindi sono stati distribuiti in vari luoghi d'Italia. Ma lei sa quanto sono in tutto? Sono 150. Ah, questi 50. Ah, quindi i famosi 500 sono diventati 50. 150. Vabbè, insomma. Sì, come sempre, dall'annuncio, diciamo, alla realizzazione c'è la tara, bisogna togliere l'IVA, sì, diciamo, come minimo. Ma no, guardi, mi faccia dire bene così. No, ma ha detto molto precisamente. Le chiedo scusa, stavo facendo lo stupido, le chiedo scusa. È giustissimo, lei dice: siccome noi intendiamo pagarli, e non è per fortuna che non sono arrivati in 1000, perché sennò sarebbe stato impossibile pagarli. No, invece, così si riesce a pagarli. Però scusate, sovrintendete, mi faccia dire una cosa, Franceschini, ora lo dico io, non lo attribuisco a lei, lo dico io, avrebbe potuto, cioè lo sapeva, doveva saperlo quante erano le risorse, forse poteva fare un annuncio un po' meno ottimistico ma stare più sul concreto. Erano già partiti prima. Cos'era? Era ancora sotto governo Letta? Sì. Non ricordo se era allora ancora prima, ma era una cosa ereditata. Cioè, in Italia si perde poi memoria di chi ha iniziato delle promesse anche. Promessi, lì per lì tutti felici, e poi dopo ci si dimentica. Senta, un'altra cosa, sempre il ministro Franceschini ha lanciato il bando internazionale per la direzione dei, credo, i 20 principali, o alcuni dei 20 principali musei italiani. Bando aperto anche a personale straniero, cioè facciamo arrivare, non so, un inglese, un americano, un russo, chiunque. Non chiunque, insomma, chiunque è titolato. Lei è d'accordo su questo, che viene letta come un'apertura importante, un rilancio anche questo? Ma io trovo fondamentale, perché bisogna sprovincializzarsi. In tutto il mondo si fa così. Io personalmente ho partecipato anche a concorsi internazionali in Germania, non vedo perché inglesi, tedeschi o americani non possano, che hanno ovviamente i requisiti, che hanno un curriculum adeguato, possano partecipare anche in Italia. Tra l'altro questo significa uno scambio di idee e di prospettive notevole. Sa, l'apertura significa anche progresso, per cui benvengano, spero appunto ci siano persone capaci che sappiano rilanciare il patrimonio straordinario che abbiamo. Ma per esempio anche Pompei fa parte di questa lista? Cioè lei avrà un successore eletto, scelto come? Un successore? Guardi, io auspico che possa essere lei. Già io sono stato scelto con una procedura aperta, nel senso, io è stato il primo caso, perché io vengo dall'università ed era stato un bando aperto, un interpello aperto, e a cui potevano partecipare anche esterni all'amministrazione del Ministero, al Ministero dei Beni Culturali. Invece comunque in questa nuova riforma Pompei e Roma restano sovrintendenze speciali che saranno appunto aggiudicate il mio successore tramite un interpello, come quello che è stato già fatto per me, che è aperto ai dirigenti del Ministero, ma anche a esterni. Anche agli stranieri, quindi? ma ormai siamo in Europa, eh. Eh no, ma infatti condivido molto. No, no, ma siccome condivido molto il discorso che ha appena fatto, perché invece che urlare, dire oddio, arrivano gli stranieri, invece è molto concreto il fatto di dire che probabilmente è uno da fuori che riesce a riconoscere che valore incredibile noi abbiamo, perché noi spesso siamo troppo già abituati ad avere certe cose. I cambiamenti traumatizzano in Italia. Anche la mia nomina fu accompagnata all'inizio da un po' di polemiche, certo, perché venivo da fuori. Ma invece io sono dell'idea che ovunque bisognerebbe fare delle procedure aperte e prendere il migliore, per conto di il migliore. Però a questo punto una curiosità mi viene, cioè la collaborazione col generale Nistri, anche il grande progetto Pompei, sta andando bene, sì, quindi c'è anche il merito di questa struttura, però abbiamo detto diverse domus. Grande merito, devo dire che senza la struttura del generale Nistri non avremmo fatto. Però l'accoppiata Nistri-Osanna sta funzionando apparentemente, almeno per Pompei, diverse domus riaperte, lo diciamo, lavori che vanno avanti, archeologi che arrivano sul sito, si parla di fare una scuola di archeologia, adesso ci dirà che cosa ha in mente. Ma perché domani dovrebbe essere scelto un sovrintendente diverso da lei, che invece potrebbe continuare questo lavoro? Cioè questa cosa verrà valutata da chi sceglie? Nel senso, ma posso essere anche io, non vedo il problema. Nel senso, adesso c'è stata una riforma del Ministero, sì, le riforme quindi prevedono che ci sia un azzeramento delle cariche. Questo perché? Perché ci sono dei cambiamenti nella struttura, certo. In particolare la struttura di Pompei si trasforma e diventa da un posto dirigenziale di seconda fascia a prima fascia, cioè da un posto da direttore generale. Questo vuol dire che bisogna fare un interpello nuovamente, chi è che decide poi sulla base dell'interpello? Il ministro? La struttura del ministero, benissimo. E, questa scuola di archeologia che lei vuol fare a Pompei, cosa ha in mente? Guardi, questa rispetto a tutte le altre cose che sono già concretizzate o si stanno concretizzando nell'immediato, è ancora a livello di progettazione e sogno, direi, nel senso, e ne abbiamo parlato anche con il ministro, che ovviamente è particolarmente favorevole, visto che ha nella sua riforma voluto fortemente una direzione generale per la formazione e la ricerca nel MIBACT. Quindi l'idea è di ripartire con la formazione in quei luoghi di eccellenza dove la formazione anche sul campo può diventare un valore aggiunto. E a Pompei c'è una tradizione che era nata nel 1866 con un illuminatissimo sovrintendente Fiorelli, che ha dato veramente la grande svolta dell'Ottocento con l'Unità d'Italia a Pompei, e lui aveva avuto l'idea e la lungimiranza di fare a Pompei una scuola di archeologia per formare i quadri, i dirigenti e i funzionari che sarebbero andati a lavorare nel Ministero, e fu un'esperienza di successo, per cui l'idea è ripartiamo anche valorizzando Pompei da questo punto di vista, perché è un cantiere straordinario per il restauro, per la ricerca archeologica, per tanti aspetti, per la valorizzazione. Quindi avere una sede di una scuola lì potrebbe essere vincente per il nostro paese. E va bene, auguri anche per questo. Grazie intanto per essere stati con noi, stato con noi, e buon sabato al sovrintendente di Pompei, Massimo Osanna. Buon sabato. Arrivederci, grazie. Beh, insomma, sono dati che parlano abbastanza chiaro. Le cose stanno andando bene. Dobbiamo puntare 20 milioni di euro più 10% di turisti a Pompei, segno che qualcosa si sta muovendo e bisogna andare in questa direzione sempre di più. 800 24 00 24, senza arrivare a Briatore che dice l'Italia ha un'unica attività economica da svolgere, il turismo. Forse le pizzerie, pensavo, perché lui non ha detto aprite una pizzeria invece che fare start-up. Che fa parte del turismo. Certo. Coerentemente. Beh, insomma, dipende, sì, le pizzerie, anche gli italiani mangiano le pizze, non solo i turisti. Però senza arrivare a questi estremi, insomma, è ovvio che fa piacere sentire notizie come queste, in attesa poi di tutte le conferme che volete, cari ascoltatori. Però intanto è un bel sentire. Paola da Verona, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. E per quanto riguarda la frase del Papa? Sì. Ecco, io vorrei dire che intanto il contesto va contestualizzato il discorso un attimino, perché si vede che c'è un alberco in atto, quindi non è che io gli dico polpettine qua e là, queste frasi non mi sembra che saltino fuori in quel contesto lì. Qui da noi comunque, io l'ho sperimentato, sono in Veneto, si dice tomare, cioè uno offende mia mamma e io rispondo tomare, cioè la tua, altrettanto la tua. Quindi ecco, lei risponderebbe per le rime, diciamo così. Esatto, perfetto. Sì. Ma Paola da Verona si iscrive anche lei, adesso poi insomma abbiamo ancora una mezz'oretta, altri ascoltatori, poi redazione, tutti noi di Si Può Fare, sceglieremo la risposta più originale, più divertente. Che si aggiudica i biglietti per la mostra di Chagall nel catalogo. Elsa dalla provincia di Treviso, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Io sono una donna molto anziana, sì, però non sono mai stata violenta. Brava. Forse per quello, madre, forse per quello che è riuscita a diventare anziana. Come? Dicevo che forse è per quello che è riuscita ad arrivare a una splendida età. Ah, può essere. La non violenza. Scusi, che... l'ho interrotta. Comunque avrei risposto. Sì. La mia è sempre migliore della tua. Ok, allora questa è la risposta di Elsa. Grazie Elsa per averci chiamato, tanti auguri, in bocca al lupo. È molto interessante anche perché, diciamo, riprendendo poi il discorso del Papa, che in fondo era anche una metafora per parlare di religione, perché si stava parlando del fatto se ci deve essere un limite o meno alla libertà di espressione, alla satira, al poter scherzare e ridere le religioni, quindi in realtà è quasi un modo per dire la mia religione è meglio della tua? Potrebbe essere. Noi, ve lo ricordo, però vi chiediamo di completare questa frase: se offendessero vostra madre, voi come rispondereste? 800 24 00 24. Ci fermiamo per una breve pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Abbiamo Oscar che ci chiama dalla provincia di Cremona. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Grazie. A lei. Dunque, due parole spesso veramente. Un signore ha avuto una piccola discussione, e sceso dalla macchina mi ha detto figlio di, e mi sono guardato e ho detto ma pensa che fortuna che hai, che tu sei mio fratellastro, che mio padre è andato con tua madre. Quindi diciamo questa è la risposta di Oscar, mi sembra. La risposta di Oscar è bellissima, Oscar, anche perché è raccontata poi con proprio in medias res, subito con una storiella molto bella. Sì, in presa diretta. Quindi la prosecuzione della frase se offendono mia madre cosa faccio è questo, rispondere così da parte sei di mio Oscar. Fratello. Sei mio fratello. Perché mio fratellastro, padre, anzi, ha detto Oscar. Va bene, un po' di ironia e non guasta naturalmente, perché anzi è questa corda che stiamo cercando di stuzzicare stamattina con gli ascoltatori di Radio 24. C'è un sms interessante che dice: io da laico mi tocca difendere il Papa, riascoltate la frase attentamente e scoprite che è diversa da come la interpretate, perché la frase è si aspetta un pugno. Sì. Cioè, perché in effetti ha detto è normale che arrivi un pugno, non ha detto è giusto, ha detto è normale, perché se offendi potrebbe la mia mamma potrebbe aspettarsi. Vabbè, un pugno. Noi lo leggiamo, visto che ci dicono che non leggiamo gli sms che sono contro di noi, ma io ne vorrei leggere di sms contro di noi molto volentieri, ma dove sono? Adesso invece andiamo in barca a vela a Trapani con una famiglia di Bologna. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice e caldo, beatamente. Voglio vivere e goder la via del monte, perché questo incanto non costa niente. Menestrello dell'amore, ah, ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così. Ah, senti che meraviglia, Gabardini, eh? Bellissimo. Proprio viene voglia di andare lì al sole e sorridere. Oggi invece siamo a Milano e piovigina. Piove, però il sole c'è a Trapani, almeno spero, con cui ci stiamo collegando. Prima però voglio fare una piccola premessa. Inauguriamo una sorta di rubrica sul downshifting, parola anche bruttina secondo me, che vuol dire scalare di marcia, mollo tutto e me ne vado. C'avevo un lavoro, non mi piaceva, vado a, per esempio in barca, a vivere in barca, a fare dell'altro. E quello che stanno facendo sempre più nostri concittadini italiani è un modo anche questo di rispondere ai tempi che corrono. E sì, noi... è un pretendere meno in realtà, o sbaglio, il downshifting. Pretendere di meno, ma forse addirittura pretendere di più. Sì, però diciamo non desiderare solo di guadagnare, non desiderare il posto fisso, perché poi andare in barca ci abbiamo voglia tutti in realtà di andare in barca. Però quanti lo fanno? Lo hanno fatto per esempio la famiglia Sola da Bologna, noi siamo in collegamento con Antonella. Sola, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto c'è il sole a Trapani? Assolutamente sì, mi dispiace, allora. Non voglio farvi rabbia, ma questo è meraviglioso. Ma è giusto, è ma giusto. È giusto così, è giusto così. Anzi, più che rabbia ci dai un po' il sorriso, Antonella, perché noi invece qua abbiamo solo pioggia, se va bene neve in alta quota per gli amanti degli sci. Forse un po' di nebbia domani, che è domenica, speriamo, non vediamo l'ora. Antonella, che con suo marito Stefano è anche una figlia di nome? Daniela, una delle due figlie, sì. Ha deciso di cambiare vita, veramente. E appunto, da che avevate una vostra vita a Calderino, sì, in provincia di Bologna, Antonella faceva l'insegnante. Sì, esatto. È insegnante, è in aspettativa. Sì, non sono in aspettativa, sono in anno sabbatico, che è una cosa simile, sì. Che è un diritto di tutti i lavoratori, che si può prendere dopo un certo numero di anni che si lavora, però sì, è identica all'aspettativa, cioè guadagno zero, contributi zero, insomma è un buco nella carriera, però è una cosa che si può fare. Si lascia la possibilità di tornare poi indietro rispetto a questa scelta e di rientrare eventualmente sul posto di lavoro. Sì. È giusto, è importante anche avere qualche sicurezza quando si fanno queste scelte, perché invece il marito che ha fatto? Il marito si è licenziato e quindi è qui con me. Stefano si è licenziato. Che lavoro faceva Stefano? Lavorava per una multinazionale tedesca. E quindi è andato. Sì, diciamo che abbiamo cercato, come dice la vostra trasmissione, di vedere se si poteva fare. E voi avete come è andata? Risposta è stata sì. Sta andando bene. Era proprio una ricerca un po' così di tempi più calmi, di ritmi più tranquilli. Non eravamo esasperati da quello che stavamo facendo, era proprio una voglia di provare a fare qualcos'altro, di più con un ritmo più rilassato, più naturale, più vicino alla natura. Certo, ma la domanda che si fanno tutti, ovviamente, dal punto di vista economico, come si fa a fare questa cosa? Guarda, allora diciamo che noi abbiamo lavorato, siamo partiti prestissimo, quindi abbiamo avuto la fortuna di cominciare a lavorare in un periodo migliore di questo. Quindi diciamo, avevate un gruzzolo da parte, come si suol dire? Qualcosa sì, ma anche e soprattutto quello che abbiamo costruito in questi anni, la casa, la macchina, quello che fanno tutti, no? Certo. Nelle famiglie normali, l'abbiamo rivenduto per comprarci del tempo, sostanzialmente quello, con la vendita di una casa per un po' d'anni si può stare tranquilli e nel frattempo guardarsi intorno. Perché voi in realtà vi state guardando intorno cercando un lavoro o cercando di mettere a frutto questa attività, cioè il fatto di andare in barca? Guarda, in realtà questo è proprio un anno di prova e di cercare di capire esattamente. Io per esempio dovevo anche capire se la cosa mi sarebbe piaciuta o meno, non nasco velista, per cui magari avevo una crisi. Antonella vuole andare coi piedi di piombo, dice vediamo un pochino come poi. Sì, oddio, no, in barca coi piedi di piombo forse non è l'esempio più adatto. Però no. Antonella, ci vuoi passare un attimo anche tuo marito, se è lì? Come è possibile, no? Stefano? Certamente. Vediamo un po'. È lì che sta pulendo la barca, perché tutti quelli che hanno la barca stanno sempre a pulire la barca. Ci sta venendo la sensazione che sia gigantesca questa barca. No, non è gigantesca, è una piccola barchetta, ma ci si sta. Dov'è Stefano? Ve lo passo. Eccolo. Vediamo. Stefano? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Noi ci siamo fatti passare te, Stefano, perché quando si è cominciato a parlare di vendere la casa, la macchina, sono cose da uomini. No, a parte gli scherzi, come è andata questo liberarsi di tutto questo e adesso stare lì in barca al sole di Trapani? Bene, cosa posso dire? Non è che abbia tante controindicazioni, direi bene. Chi dei due aveva più forse dell'altro questo sogno nel cassetto? Non te lo so dire, forse io, ma non l'abbiamo fatto in comune accordo, ecco. Una cosa facile che siamo arrivati praticamente assieme. Ok, no, scherzi a parte, vendere la casa e la macchina è andato tutto bene? Avete realizzato una buona cifra? contando che la casa l'abbiamo comprata in lire e rivenduta in euro, sì. Ah, beh, certo. Dobbiamo vedere il valore della casa, poi come è stata venduta, ovviamente. No. Adesso non è un bel momento, però insomma. No. però è andata bene per quello. Ecco, sì. Rispetto, diciamo, alla cifra iniziale, cioè, esatto. Non siete comunque andati in perdita. E adesso siete lì che vi godete il sole, però ecco, il vostro progetto è fare dei viaggi in barca, ma c'è questa cosa della figlia che è molto bella. Vostra figlia deve fare l'ultimo anno di liceo. Deve fare l'ultimo anno di liceo e poi dopo lei deciderà cosa fare. Quindi lei stessa però, diciamo, è stata coinvolta, nel senso che lei vuol venire con voi, non ha voluto perdere il collegamento con voi, quindi lì a Trapani ha cambiato scuola per l'ultimo anno. Sì, diciamo che lei è molto attaccata al mare, ecco, ci ha un po' spinto anche lei, perché sennò questa cosa l'avremmo fatta magari più avanti, sì. Tra un anno o due. Col fatto che lei comunque è molto appassionata del mare, di immersione, di altro, e quindi ci ha un po' esortato a farlo, ecco. Stefano, mi ripassi un attimo Antonella, vorrei sentire il cuore di mamma cosa dice sulla figlia, perché è che Alessio non si fida che siate tutti veramente sulla barca, quindi voglio controllare. Esatto, controlla. Continua a farmi passare sia l'uno che l'altro. Sì, avanti indietro, Esatto. Eccola, guarda, vediamo se la troviamo, ce l'abbiamo ancora Antonella. Perché poi, eccola, no, dicevo, il cuore di mamma con questa figlia che comunque vuol venire con voi, la Daniela. Vorrebbe venire sì, con è voi. Stata, lei è stata uno dei motivi che ci ha permesso di potersi di spostarsi anche con una gran serenità. È stato un po' il fulmine del sereno, perché vedi. Io ero già molto rilassata, del tipo sì, lo faremo tra un po'. Lei ha detto no, grande, facciamo questa prova, mi piace, voglio di fare questa esperienza, e quindi opla, siamo partiti. Ma anche perché lei vive sulla barca con voi, giusto? Assolutamente, sì. Solo che voi non sì. potete andarvene, diciamo, a fare un viaggio, perché lei deve finire la scuola e non ha più la casa perché l'avete venduta. Esatto. Bravissimi, questo anche nei giretti quotidiani, per cui può capitare che lei torna con lo zaino, la barca è un attimo fuori perché magari stiamo a fare un giro verso le Egadi. Papà e mamma aspetta. Sono a fare un giro alle Egadi e lei torna. E lei non ha la casa. Fantastico, siete fantastici. E lei aspetta la casa. Aspetta un attimino. Non fatela aspettare troppo, mi raccomando. No, è una battuta, non capita spesso. Però quando andiamo via noi vai alla casa. Certo. No, perché infatti è interessante anche capire questa cosa, nel senso che è ovvio che è una cosa che forse si può fare, ma che bisogna accordarsi con tutti i componenti della famiglia, ovviamente, perché sennò diventa difficile. Cioè, vabbè, o uno è miliardario, può comprarsi sia due case sia la barca, ma non è questa la storia che ci interessava raccontare, ma il fatto appunto di dire, cioè anche una figlia dice, ma a me va benissimo, io vado avanti a fare la scuola e vengo a vivere con voi in barca. E poi insomma Antonella, il progetto è di fare un viaggio, quindi vi muoverete, diciamo, per il viaggio lungo dopo la maturità di Daniela. Nel frattempo piccoli viaggi, dove siete stati per ora? Guarda, noi abbiamo fatto il viaggio venire in giù, che è stata una gran scoperta, perché noi abbiamo sempre passato le vacanze all'estero e andavamo in bicicletta, facevamo altre cose, quindi il sud Italia per esempio non l'abbiamo mai visto, ed è stata una scoperta fantastica. Sono posti di una bellezza commovente, quindi il viaggio da Marina di Ravenna fino in Sicilia è stata una cosa bellissima. Che bello. La Sicilia è una terra meravigliosa, anche questa lo dico proprio con emozione, perché per me è stata una vera e propria scoperta. Un ascoltatore ci chiede quanto è grande la barca a vela. La barca a vela è 13 metri praticamente di lunghezza, si misura in piedi la barca, quindi certo. 42 piedi, ed è 13 metri. Per far capire a chi, diciamo che ci sono due cabine, due camere, che poi sono due letti sostanzialmente, non è che ci sia l'armadio quattro stagioni, il comodo, ma ci sono due cabine dove si dorme, è una zona giorno dove c'è un angolo cucina, il pozzetto, un divano, eccetera. Possetto quello fuori. Certo. Gabardini, non dire cose che pensi di sapere, ma in realtà non sai assolutamente, perché qua hai di fronte a te due professionisti. Antonella, la prossima volta che ci sentiamo, perché magari sarebbe bello risentirvi per capire come evolve la vostra storia, ci racconti un po' anche tutte le cose pratiche, no? Come si sta in barca, come avete fatto a selezionare per esempio l'abbigliamento, perché immagino che non essendoci l'armadio quattro stagioni, uno deve portarsi dietro proprio lo stretto indispensabile e cose di questo genere. Per cui se vi fa piacere ci possiamo risentire. Intanto volentieri. In bocca al lupo e godetevi il sole di Trapani anche per noi. Esatto. D'accordo, perfetto. Grazie. E saluti a Daniela soprattutto. Senz'altro. Mi raccomando. Salutiamo anche la figlia grande. Ma sì, giusto. Salutiamola. Salutiamo Silvia, che tra l'altro è stata la nostra musa ispiratrice, perché anche lei si è pubblicata un ebook da sola, si chiama Sognando Venere, dove parla di un viaggio di mare, per cui è colpa sua. Però allora ce lo dovevi dire prima che era lei la vera ispiratrice. Ne parliamo la prossima volta. Grazie Antonella e Stefano Sola da Trapani. Grazie, buon sabato. Buona giornata, grazie. 800 24 0024 traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora abbiamo Franca che ci chiama dalla provincia di Pesaro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire Franca? Allora, a proposito della frase del Papa, se qualcuno offendesse la mia mamma, io gli butterei le braccia al collo e mamma! La chiamerebbe mamma, si rivolgerebbe a lui come mamma, per fargli capire che il destinatario dell'offesa è lui stesso. Bella, esatto. Questa Franca, ecco. Con questo, diciamo, gioco di ruoli e di parole, grazie, la iscriviamo anche lei al nostro gioco e tra qualche minuto sveleremo. Ti leggo un tweet invece che è arrivato da Sergio Sierra 67 che dice io non devo intervenire se offendono mia mamma, perché mia mamma si difende benissimo da sola. Anche questo ci sta. Nicola da Siracusa, buongiorno. Sì, buongiorno. Augusta, in provincia di Siracusa, sole pure qua, oltre che a Trapani. Vabbè, ma la Sicilia tutta, lo sappiamo. Sì. Fortunatamente c'è questo almeno. E volevo partecipare al piccolo giochino per circa la frase del Papa. Sì. Ecco, se qualcuno offende la mia mamma, io gli potrei rispondere, ma pensa un po' che la tua è peggio della mia in quanto è riuscita a tirar su un imbecille come te, ad esempio. Questo, diciamo che è un modo per aizzare un po' la situazione, però sempre a parole, quindi ci può stare. Nicola, grazie per aver partecipato anche a te. 800 24 0024, come detto. Allora, tra poco ci riuniremo per decidere, per deliberare chi oggi ha dato la risposta più originale, più intrigante per noi, e quindi si porta a casa biglietti e catalogo della mostra di Chagall. Adesso c'è tempo per l'ultima storia. Ogni pagina voltando, ogni pagina leggendo, ogni pagina gustata, leccandosi le dita. Sfoglialo lentamente, mangialo con la mente, un libro ti racconta fiabe e storie, ti porta in volo insieme agli aquilotti, che scuola insieme cose allegre e serie, è silenzioso ma pieno di botti. Ogni pagina voltando, ogni pagina leggendo, ogni pagina gustata, leccandosi le dita. A me piace molto questa canzoncina di Giovanni Caviezel e Roberto Piumini, la canzone dei libri, è molto così, bambini, zecchino d'oro, molto divertente, accogliente. Però accogliente, e ci è sembrata la colonna sonora giusta per parlare di questa curiosa iniziativa, Campionati del Mondo dei Romanzi del Novecento. Al via la selezione italiana, niente po' di meno che con il patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ne parliamo con Tiziana Magone. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la curiosità di sapere come si fanno i campionati del mondo dei romanzi del Novecento, ce lo vuoi spiegare? Sì, premetto che l'edizione di quest'anno riguarda solo le selezioni italiane, cioè un primo round relativo ad 8 romanzi italiani del Novecento. Sì, perché ci sono state altre edizioni più estese, più ampie in passato. No, la prima assoluta. Ah, ecco. Ci siamo inventati, ce lo stiamo costruendo, è la prima assoluta. Sì. E, questa prima edizione riguarderà i romanzi italiani del Novecento e andrà a designare il campione italiano che andrà a sfidare gli americani, i francesi, tutto il mondo nel vero Mondialibro che invece si terrà l'anno prossimo. Ecco, a parte la curiosità di sapere com'è costituita questa rete, diciamo, internazionale di campionati del mondo di libri, come si gioca però? Come si svolgono? Cioè, chi è che scende in campo? Il regolamento qual è? Allora, il regolamento è, dunque, partiamo dalla selezione. L'Unione Culturale Franco-Antonucci di Torino, che si è inventata questo gioco insieme ad Andrea Baiani, ha selezionato 50 grandi autori, grandi romanzi italiani e li ha proposti a giovani scrittori e critici letterari, di cui 8 si sono fatti paladini, hanno deciso di giocare con noi e hanno scelto all'interno di questa lista dei 50 i loro 8 libri che andranno a rappresentare. Quindi i concorrenti sono 8, gli incontri saranno 7, si scontrano, gli scontri sono un libro contro l'altro difeso dal suo paladino e si svolgono secondo delle modalità calcistiche mutuate dal calcio, che sono primo e secondo tempo e rigori. E come si fa il gol? Il gol si fa facendo un'ottima performance e convincendo il pubblico, immagino. Convincendo il pubblico in sala. E soprattutto però poi alla fine c'è il testo, perché uno può essere un grandissimo affabulatore, però se difende un libro debole si va ai rigori, e i rigori sono le citazioni, sono 3 alternate e verranno misurate con l'applauso, con un'app che misura l'applausometro, e poi ci sarà una votazione in sala e poi ci sarà tutto un meccanismo di giurie che sono 3 in realtà. C'è la giuria popolare, che è fatta da quelli che votano in rete liberamente a partire da 10 giorni prima dell'incontro, quale dei due libri. Ecco, e questo mi sembra interessante, perché non è, diciamo, rivolto solo ai torinesi, ma si può partecipare anche in streaming in qualche modo. Si può partecipare anche, cercheremo di fare la diretta streaming, per l'incontro non lo facciamo, ma faremo dei servizi giornalistici che metteremo in rete, faremo un servizio al 90° minuto curato da Darwin Pastorini con dell'incontro, interviste a bordo campo. L'idea è bellissima, l'idea è veramente l'idea bellissima. È bella e divertente. Sarebbe bello poterla fare proprio fisicamente in tante città, però immagino che organizzare una cosa così non sia. Si farà la Champions, si farà. Ecco, veniamo a questo, alle selezioni internazionali. Cioè, siete in contatto con altre associazioni nel mondo per fare tutto questo? Dunque, dobbiamo crederci? No. No, ma forse non avete neanche tanta idea delle dimensioni della nostra organizzazione. Pensate che per tutta questa cosa noi abbiamo un budget che si aggira sui 1.000 euro scarsi, e che questo mi fa onore. In qualsiasi grande evento torinese, dal Festival del Jazz ad altre cose più note, col budget di questi grandi eventi, l'Unione Culturale potrebbe essere finanziata per il prossimo secolo. E quindi sulla rete internazionale ci state lavorando. Però noi tanto vi aiutiamo sicuramente. Sì, anzi, vogliamo essere aggiornati su come. Io voglio anche venire a vederli questi incontri, mi sembrano bellissimi. Soprattutto ho letto una cosa molto divertente, che nel regolamento, che nel secondo tempo uno può anche attaccare il libro dell'altro, cioè invece che parlare bene del proprio può iniziare a parlare male del libro del proprio avversario. Certo, fa parte della libertà di critica, è giusto. Molto interessante. Tra l'altro 3-4-2, fate come volete. È molto attuale 3-4-2, molto attuale la libertà di critica. Grazie per il momento a Tiziana Magone dell'Unione Culturale Antonincelli di Torino. Grazie per essere stato con noi, per averci illustrato l'iniziativa. Vi seguiremo, vi terremo d'occhio. Buon sabato. Buon sabato. Allora, veniamo al premio di oggi. Vince, a giudizio insindacabile della redazione di tutti noi, di Si può fare, Chiara da Milano, che alla questione se insultassero vostra madre che cosa fareste, le farei mangiare le polpettine della mamma, in segno di pace, esatto, o di vendetta. Stava vedete per voi, essere un esequo fra polpettine e il papagno, e alla fine, all'ultimo, per un pelo ha vinto le polpettine. Brava Chiara. Chiara, vince i biglietti e il catalogo di Chagall. Tutto per oggi, grazie ad Andrea Piana, autore insieme a noi di questo programma, ma anche a Daniele Buonamici in assistenza redazione oggi, Miriam Lucchetti e la nostra Claudia Schiattone all'esordio, quasi Peter Vescapa in regia. Ci sentiamo domani. Ciao, ciao da Maurizio e da Carlo Gabardini.